Capitolo ventisettesimo. Carattere e imprese di Dioniso. Per ordine di Era i titani si impadronirono di Dioniso, figlio di Zeus, un bimbo cornuto e anguicrinito, e benché egli si trasformasse di continuo, lo fecero a brani. Poi ne bollirono i resti in un calderone, mentre un albero di melograno sorgeva dal suolo insuppato del suo sangue. Ma la nonna Rea accorse in suo aiuto e gli ridonò la vita. Zeus lo affidò allora a Persefone, che lo condusse dal re di Orcomeno a Tamante, e da sua moglie Ino, e convinse quest'ultima ad allevare Dioniso negli alloggi delle donne, travestito da fanciulla. Ma Era non si lasciò trarre in inganno e punì la coppia regale con la pazzia, cosicché a Tamante uccise suo figlio Learco, scambiandolo per un cervo. Allora, seguendo le istruzioni di Zeus, Ermete temporaneamente trasformò Dioniso in un capretto o in un ariete e lo portò dalle ninfe Macride, Nisa, Erato, Bromie e Bacche, che vivevano sul monte Nisa in Elicona. Esse celarono Dioniso in una grotta e lo nutrirono di miele. Zeus, in segno di gratitudine, pose poi la loro immagine tra gli astri come costellazione delle Iadi. Fu sul monte Nisa che Dioniso inventò il vino, e tale invenzione gli procurò grandissima fama. Quando raggiunse la maturità, Era riconobbe in lui il figlio di Zeus, benché fosse molto effeminato per via dell'educazione ricevuta, e fece impazzire anche lui. Egli andò vagando per il mondo, accompagnato dal suo tutore Sileno e da un gruppo frenetico di satiri e di menadi, le cui armi erano bastoni ricoperti d'edera con una pigna sulla punta chiamati tirso e spade, serpenti e rombi, asticelle ronzanti. Egli navigò fino all'Egitto, portando il vino con sé, e a Faro il re Proteo lo accolse ospitalmente. Tra i libi del delta del Nilo, di fronte all'isola di Faro, vi erano certe regine delle Amazzoni, e Dioniso le invitò a marciare con lui contro i titani, che avevano scacciato re Ammone dal suo regno. La sconfitta dei titani fu uno dei molti successi militari di Dioniso, che restituì ad Ammone il suo scettro. Egli si diresse poi a oriente, verso l'India. Giunto all'Eufrate, si trovò di fronte un avversario, il re di Damasco, che Dioniso scorticò vivo. Poi lanciò sul fiume un ponte d'edere e di vite, e una tigre, mandata dal padre suo Zeus, lo aiutò a passare sulla sponda opposta del Tigri. Raggiunse così l'India, dopo aver affrontato molti avversari lungo il cammino, e conquistò l'intera regione insegnando agli abitanti l'arte della viticoltura, istituendo leggi e fondando città. Al suo ritorno gli si opposero le Amazzoni, che egli aveva già respinto in precedenza sino a Efeso. Alcune si rifugiarono nel tempio di Artemide, dove vivono ancora le loro discendenti. Altre fuggirono a Samo, dove Dioniso le inseguì con delle navi, facendone strage così grande che il campo di battaglia fu chiamato Panema. Presso Fleo, alcuni degli elefanti che Dioniso aveva portato con sé dall'India morirono, e ancora oggi si vedono biancheggiare le loro ossa. In seguito Dioniso ritornò in Europa passando dalla Frigia, dove sua nonna Rea lo purificò per i molti delitti commessi durante la sua pazzia e lo iniziò ai misteri. Dioniso poi invase la Tracia, ma non appena la sua gente fu sbarcata alla foce del fiume Strimone, Licurgo, re degli Edoni, li attaccò selvaggiamente con un pungolo da bestiame e catturò l'intero esercito, salvo Dioniso, che si tuffò nelle onde del mare e si rifugiò nella grotta di Teti. Rea, irritata per questa sconfitta, aiutò i prigionieri a fuggire e fece impazzire Licurgo. Egli colpì con una scure il proprio figlio Driade, convinto di potare una vite. Prima di ritornare in sé, aveva già reciso al cadavere il naso, le orecchie, le dita delle mani e dei piedi. L'intera Tracia isterilì per l'orrore di questo crimine. Quando Dioniso, riemerso dal mare, dichiarò che la terra sarebbe rimasta sterile finché Licurgo non fosse stato messo a morte, gli Edoni lo trascinarono sul monte Pangeo e cavalli selvaggi ne straziarono il corpo. Vinta ogni opposizione in Tracia, Dioniso passò in Beozia, dove visitò Tebe e invitò le donne a unirsi alle sue feste notturne sul monte Citerone. Penteo, re di Tebe, cui non garbava la vita dissoluta di Dioniso, lo arrestò unitamente alle Menadi, ma improvvisamente impazzito, invece di mettere in ceppi Dioniso, mise in ceppi un toro. Le Menadi fuggirono di nuovo e si dispersero furibonde lungo le pendici del monte dove fecero a brani i vitelli. Penteo cercò di fermarle, ma, accese dal vino e dalla frenesia religiosa, esse lo fecero a brani. La madre di Penteo, Agave, guidava le forsennate e fu lei che gli staccò il capo dal busto. A Orcomeno, le tre figlie di Minia, chiamate Alcito e Leucippe e Arsippe, o Aristippe o Arsinoe, rifiutarono di partecipare alle feste notturne, benché Dioniso stesso le avesse invitate, presentandosi a loro sotto l'aspetto di fanciulla. Egli si trasformò allora in leone, in toro, in pantera e fece impazzire le tre sorelle. Leucippe offrì il proprio figlio Ippaso in sacrificio, egli era stato scelto mediante estrazione a sorte, e le tre sorelle, dopo averlo smembrato e divorato, vagarono per le montagne finché Ermete non le trasformò in uccelli, benché taluni dicano che Dioniso stesso le trasformò in pipistrelli. La morte di Ippaso viene commemorata ogni anno a Orcomeno con una festa detta Agrionie, provocazione alla furia. Le donne fingono di cercare Dioniso e, dopo aver stabilito che egli si trova in compagnia delle muse, siedono in cerchio e si pongono indovinelli finché il sacerdote di Dioniso esce dal tempio con la spada in pugno e uccide la prima che gli capita sotto mano. Quando l'intera Beozia ebbe accettato il culto di Dioniso, il dio si recò nelle isole dell'Egeo, spargendo gioia e terrore ovunque passava. Giunto a Icaria, si accorse che la sua nave non teneva più il mare e ne noleggiò un'altra da certi marinai tirreni che dicevano d'essere diretti a Nasso. Erano invece pirati e, ignari della divina natura del loro passeggero, fecero rotta per l'Asia, dove intendevano venderlo come schiavo. Dioniso fece allora crescere una vite attorno all'albero maestro, mentre l'edera avvolgeva il sartiame, trasformò i remi in serpenti e se stesso in leone, e la nave si colmò di fantasmi di animali feroci che si muovevano al suono di flauti, cosicché i pirati, terrorizzati, si gettarono in acqua e divennero delfini. A Nasso Dioniso incontrò la bella Arianna che Teseo aveva abbandonata e la sposò senza indugio. Essa gli generò Enopione, Toante, Stafilo, Latromide, Evante e Tauropolo. In seguito Dioniso pose tra le stelle la corona nuziale di Arianna. Da Nasso il dio si recò ad Argo, dove Perseo gli aveva opposto resistenza uccidendo molti dei suoi seguaci. Dioniso lo punì facendo impazzire le donne argive, che cominciarono a divorare crudi i loro bambini. Perseo si affrettò ad ammettere la propria colpa e placò Dioniso erigendogli un tempio. Infine, affermato il suo culto in tutto il mondo, Dioniso ascese al cielo e ora siede alla destra di Zeus come uno dei dodici grandi. La mite e umile dea Estia gli cedette il suo posto alla mensa, lieta di cogliere quell'occasione per sottrarsi alle continue dispute degli dei, ben sapendo che sarebbe stata accolta con gioia in ogni città greca che le fosse piaciuto visitare. Dioniso poi discese al Tartaro passando da Lerna e, donandole del mirto, indusse Persefone a liberare la madre sua Semele. Semele salì con Dioniso nel tempio di Artemide a Trezene, ma per non ingelosire le altre ombre dei morti, Dioniso le cambiò nome e la presentò agli dei Olimpi come Tione. Zeus mise a sua disposizione un alloggio ed Era si chiuse in un indispettito ma rassegnato silenzio. Il filo conduttore della mistica storia di Dioniso è il diffondersi del culto della vite in Europa, in Asia e in Africa settentrionale. Il vino non fu inventato dai greci, pare che fosse dapprima importato in giare da Creta. La vite selvatica cresceva sulle coste meridionali del Mar Nero e di lì la coltivazione si diffuse sul monte Nisa in Libia, attraverso la Palestina e così pure in Creta. Giunse in India attraverso la Persia e nell'Inghilterra dell'età del bronzo seguendo la via dell'Ambra. Le orge di vino in Asia Minore e in Palestina, la festa cananea dei tabernacoli era in origine un baccanale, ebbero il medesimo carattere frenetico delle orge di birra in Tracia e in Frigia. Il trionfo di Dioniso consistette nell'affermarsi della superiorità del vino su ogni altra bevanda inebriante. Secondo Ferecide, Nisa significa albero. Dioniso fu in origine sottoposto alla dea Luna Semele, chiamata anche Tione o Cotitto, ed era anzi la vittima predestinata delle sue orge. Fu allevato come fanciulla a somiglianza di Achille, e ciò ricorda l'usanza cretese di tenere i ragazzi nell'ombra scotioi, vale a dire negli alloggi delle donne fino alla pubertà. Uno degli appellativi di Dioniso fu Dendrite, ossia giovanetto albero, e la festa di primavera, quando gli alberi improvvisamente esplodono in germogli e tutto il mondo arde di desiderio, celebrava la sua emancipazione. Egli è descritto genericamente come bimbo cornuto e tali corna erano via via corna di capro, di cervo, di toro o di ariete, a seconda delle sue località di culto. Quando Apollodoro dice che Dioniso fu trasformato in un capretto per sottrarlo all'ira di Era, Erifo Capretto fu uno dei suoi appellativi, egli si riferisce al culto cretese di Dioniso Zagreo, il capro selvatico dalle enormi corna. Virgilio spiega erroneamente che la capra era l'animale più frequentemente sacrificato a Dioniso perché danneggiava la vite brucandone i germogli. Dioniso, sotto aspetto di cervo, è Learco, che Atamante uccise quando Era lo fece impazzire. In Tracia diventa un toro bianco, ma in Arcadia Ermete lo trasformò in ariete, perché gli Arcadi erano pastori e il sole entrava nella costellazione dell'ariete durante la festa di primavera. Le Iadi, propiziatrici di pioggia, cui fu affidato Dioniso, erano chiamate l'altra, la zoppa, l'appassionata, la tonante e la furibonda, appellativi che descrivevano le cerimonie di Dioniso. Esiodo, citato da Teone, dice che i primitivi nomi delle Iadi erano Fesile, luce filtrata, Coronide, corvo, Cila, famosa, Feo, torbida ed Eudora, generosa. E l'elenco di Igino è pressappoco simile. Niso significa zoppo e pare che nelle orge di birra celebrate sulle montagne il re sacro saltellasse zoppicando come una pernice, così come accadeva nella festa primaverile cananea detta Pesach, zoppicante. Ma la storia di Macride, che nutrì Dioniso con del miele, e delle menadi che usavano come tirsi rami di abete avvolti d'edera, ci ricorda l'uso di una bevanda inebriante primitiva, e cioè della birra di abete rinforzata con succo di edera e addolcita con idromele. L'idromele era il nettare ottenuto con miele fermentato, che gli dei dell'Olimpo omerico continuarono a bere. J. E. Harrison, che formulò per primo l'ipotesi che Dioniso come dio del vino fosse una tarda sovrapposizione di Dioniso dio della birra, detto anche Sabazia, suppone che tragedia non derivi da tragos, ossia capra, come sostiene Virgilio, ma da tragos, spelta, un cereale usato dagli ateniesi per preparare la birra. L'autrice aggiunge che nella pittura vascolare primitiva si vede Dioniso attorniato da uomini cavalli e non da uomini capri, e che il cesto dell'uva era in origine un setaccio. In verità la capra libica o cretese era associata con il vino e il cavallo ellenico era associato con la birra e con il nettare. E così Licurgo, che si oppone al Dioniso più tardo, è fatto a pezzi da cavalli selvaggi, cioè dalle sacerdotesse della dea dalla testa di giumenta, e subisce dunque la sorte del Dioniso più antico. La storia di Licurgo risulta un po' confusa per via dell'irrilevante accenno alla maledizione che colpì la sua terra dopo la morte di Driante, Quercia. Driante era il re Quercia che veniva ucciso ogni anno. Gli amputavano le estremità per tenere a rispettosa distanza la sua ombra, e chi osasse abbattere una sacra Quercia era punito con la pena capitale. Cotitto era il nome della dea in onore della quale si celebravano i riti degli Edoni. Le epifanie di Dioniso furono il leone, il toro ed il serpente, poiché tali erano gli emblemi dell'anno diviso in tre parti. Egli era nato in inverno come serpente, ecco il perché della corona di serpi, divenne leone in primavera e fu ucciso e divorato a mezza estate sotto l'aspetto di toro, capro o cervo. Si trasformò nei suddetti animali quando i titani lo attaccarono. A Orcomeno pare che una pantera avesse preso il posto del serpente. I misteri di Dioniso somigliavano a quelli di Osiride. Ecco il perché della sua visita in Egitto. L'odio di Era per Dioniso e la sua coppa di vino, così come l'ostilità dimostrata da Penteo e Perseo, rispecchia l'opinione dei conservatori che si opposero all'uso rituale del vino e allo stravagante comportamento delle Menadi, che si era diffuso dalla Tracia ad Atene, Corinto, Sicione, Delfi e altre città civili. Tuttavia, verso la fine del VII secolo e l'inizio del VI secolo a.C., Periandro, tiranno di Corinto, Clistene, tiranno di Sicione e Pisistrato, tiranno di Atene, decisero di approvare tale culto e istituirono feste ufficiali in onore di Dioniso. Si ritenne allora che Dioniso e il suo vino fossero stati bene accetti anche tra gli dei. Egli soppiantò Estia nel numero degli Olimpii verso la fine del V secolo a.C., benché gli dei domestici continuassero a richiedere sacrifici sobri. Secondo una delle tavolette del palazzo di Nestore a Pilo, recentemente decifrata, Dioniso aveva già carattere di divinità nel XIII secolo a.C. Tuttavia, per molti secoli ancora, Dioniso rimase un semidio e la sua annuale resurrezione continuò a essere celebrata a Delfi, dove i sacerdoti consideravano Apollo la parte immortale di Dioniso. La leggenda di Dioniso, che rinasce dalla coscia di Zeus come il dio ittita dei venti rinasce dalla coscia di Cumarbi, rinnega la sua antica origine matriarcale. La rinascita rituale da un uomo era una ben nota cerimonia d'adozione presso gli ebrei, che la importarono dagli ittiti. Dioniso viaggiò sulla barca della Luna Nuova e la leggenda della sua lotta con i pirati pare sia stata tratta dal medesimo modello che diede origine alla leggenda di Noè e degli animali nell'arca. Il leone, il serpente e le altre creature sono le epifanie stagionali del dio. Dioniso è insomma Deucalione. Gli abitanti di Brasie, in Laconia, narravano una versione poco canonica della sua nascita. Secondo loro, Cadmo chiuse Semele e suo figlioletto in un arco, che andò alla deriva finché giunse a Brasie, dove Semele morì e fu sepolta, mentre Dioniso fu allevato da Ino. Faro, un'isoletta nel delta del Nilo, sulle cui spiagge Proteo passò attraverso le stesse metamorfosi di Dioniso, era la sede del maggior porto mediterraneo dell'età del bronzo. Fu un deposito per i mercanti di Creta, dell'Asia Minore, delle isole Egee, della Grecia e della Palestina. Da lì probabilmente il culto del vino si diffuse in ogni direzione. Il racconto delle guerre di Dioniso in Libia si riferisce forse agli aiuti militari inviati ai Garamanti dai greci loro alleati. Il racconto del suo viaggio in India è stato interpretato come una versione fantastica del viaggio di Alessandro verso l'Indo, ma è più antico e si riferisce ai progressi verso est della viticoltura. La visita di Dioniso in Frigia, dove Rea lo iniziò ai misteri, lascia supporre che i riti greci di Dioniso, noto come Sabazio o Bromio, fossero di origine frigia. La corona boreale, serto nuziale di Arianna, era anche detta la corona cretese. Arianna era la dea luna cretese e i figli che essa ebbe da Dioniso, Enopione, Toante, Stafilo, Tauropolo, Latromide ed Evante, erano gli antenati eponimi delle tribù di cultura elladica stabilitesi a Chio, a Lemno, nel Chersoneso Tracio e più oltre. Poiché la viticoltura raggiunse la Grecia e l'Egeo attraverso Creta, oinos vino è parola cretese, Dioniso è stato confuso col cretese Zagreo che, come Dioniso, fu fatto a pezzi subito dopo la nascita. Agave, la madre di Penteo, è la dea luna che presiedeva alle feste notturne della birra. La leggenda di Ippaso fatto a pezzi dalle sue tre sorelle, che sono la triplice dea nel suo aspetto di ninfa, ha un parallelo nella favola gallese di Pwyll, principe di Dyfed, dove, a Calen di maggio, Rhiannon, forma corrotta di Rigantona, grande regina, divora un poledro che è in realtà suo fratello Praideri, ansietà. Anche Posidone era stato divorato sotto forma di poledro da suo padre Zeus e probabilmente, in una versione più antica del mito, da sua madre Rea. Ciò significa che l'antico rito durante il quale le menadi dalla testa di giumenta facevano a brani e divoravano crudo il fanciullo vittima del sacrificio annuale, rivisse nei riti dionisiaci sotto forma più mite. Si uccideva infatti un puledro invece di un fanciullo. Il melograno che sbocciò dal sangue di Dioniso era anche l'albero di Tammuz, Adone e Rimmon. Il frutto, quando è maturo, si fende a forma di ferita e mostra i chicchi rossi all'interno. Simboleggia la morte e la promessa di resurrezione che stanno nelle mani della dea Era o Persefone. La storia di Dioniso che salva Semele, cui viene dato il nuovo nome di Tione, regina invasata, è tratta da qualche cerimonia che si teneva ad Atene e rappresentata sul pavimento della sala da ballo delle donne invasate. Colà, al suono di flauti e pifferi, le donne danzavano lanciando petali di fiori, mentre un sacerdote invitava Semele a emergere dall'Onfalos e a presentarsi in compagnia dello spirito della primavera, il giovane Dioniso. A Delfi, una cerimonia analoga, cui partecipavano soltanto donne, veniva chiamata Eroide o Festa dell'Eroina. E probabilmente una terza cerimonia del genere si teneva nel tempio di Artemide a Trezene. La dea Luna, come ricordano i versi di John Skelton, aveva tre diversi aspetti: Diana in the Leaves Green, Luna who so bright doth sheen, Persephone in Hell. Semele era in verità un altro nome di Coreo Persefone, e la scena della sua apparizione è dipinta su molti vasi greci, alcuni dei quali ci mostrano i satiri che mediante picche aiutano l'eroina a emergere dall'Onfalos. La loro presenza indica che si trattava di un rito pelasgico. Ciò che essi sterravano era probabilmente la bambola di grano sepolta dopo la semina e ora coperta di verdi germogli. Core in verità non saliva al cielo, ma vagava sulla terra con Demetra finché giungeva il tempo di scendere nell'oltretomba. Ma quando Dioniso entrò nel numero degli dei olimpici, l'assunzione al cielo della sua vergine madre divenne dogmatica e non appena divenuta divinità, essa si differenziò da Core, che continuò come semplice eroina a risalire e a scendere nel Tartaro. La vite fu il decimo albero dell'annata sacra, composta di tre anni, e il suo mese corrispondeva a settembre, quando si svolgono le feste della raccolta dell'uva. L'edera, l'undicesimo albero, corrispondeva a ottobre, quando le menadi si inebriavano masticando foglie d'edera, ed era molto importante perché, come gli altri alberi sacri, la quercia spinosa di El, delle cui foglie si nutrivano le coccinelle, lontano di Foroneo, e la vite e il melograno di Dioniso dava la tintura di porpora. Teofilo, il monaco bizantino, dice che poeti e artisti amavano l'edera per via dei suoi segreti poteri, uno dei quali è il seguente: in marzo, quando la linfa si gonfia, se bucate con uno spillo il gambo dell'edera in più punti, trasuderà un liquido gommoso che, mescolato con l'urina e messo a bollire, diventa di un color rosso sangue, ottimo per dipingere e alluminare. La tintura rossa era usata per colorare i volti di figure maschili a portatrici di fertilità e i volti dei re sacri. A Roma sopravvisse l'uso di tingere in rosso il volto dei generali trionfatori. Il generale rappresentava il dio Marte, che diede il suo nome al mese di marzo e che, prima di trasformarsi nel dio romano della guerra, era stato Dioniso, dio della primavera. Si usava imbellettare anche la faccia dei re inglesi nelle cerimonie ufficiali per farli sembrare sani e prosperosi. Inoltre, l'edera greca, come la vite e il platano, ha una foglia a cinque punte che rappresenta la mano creatrice della dea Terra Rea. Il mirto era l'albero della morte.